si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati cari ascoltatori. Ogni settimana a mezzogiorno su Radio 24 si può fare, cerchiamo e raccontiamo storie di quelle persone che ci insegnano, insomma, che ce la possiamo fare, che ci danno un contributo concreto, ci aiutano, insomma, che vanno al di là delle chiacchiere troppe volte sterili della politica e dell'economia. L'altra attualità della settimana. Allora, qualche notizia della settimana, la buona notizia: merce sequestrata perché contraffatta donata alle missioni. L'iniziativa benefica della Guardia di Finanza, che ormai ne inventa una alla settimana, e dell'Agenzia delle Dogane di Genova, che hanno donato al Centro Missioni Estere dei Frati Cappuccini 3.000 asciugamani, 420 accappatoi sequestrati perché erano appunto contraffatti e andranno a finire in Africa e in America Latina. Il personaggio della settimana da Parma Today, una signora parmigiana di 56 anni, la cui figlia aveva appena partorito all'ospedale di Parma. Si accorge che un uomo le ha rubato il portafogli, non si perde d'animo e lo fa bloccare dalla polizia. Lei, figlia di un poliziotto, ha inseguito il ladro, lo ha braccato e lo ha consegnato nelle mani della polizia, tra l'altro recuperando anche la refurtiva, cioè il suo portafogli. Una notizia d'ambiente viene da Napoli: piste ciclabili in via Caracciolo, sempre meno spazio per le auto. Ci fa piacere che una volta a rognare siano appunto le auto, non i ciclisti. La commissione edilizia del comune ha approvato una variante alla maxi pista. Il percorso si sposterà dal marciapiede alla carreggiata, con il restringimento di un metro e mezzo della corsia dedicata alle macchine, dalla Repubblica di Napoli. Queste alcune notizie, noi aspettiamo le vostre segnalazioni, tra poco vi aspettiamo anche in diretta, però in settimana scriveteci sul profilo Facebook, si può fare, /radio24, anche alla nostra mail, si può fare, radio24.it, e anche non dimenticate la segreteria telefonica 828 12 12. Questa settimana si è parlato ancora una volta dello stipendio dei ministri, dei sottosegretari, insomma dei politici. Sentite cosa ci ha proposto un ascoltatore. Monti dice: comprate i nostri bot, i nostri titoli. La mia proposta sarebbe: perché non paga una certa percentuale di stipendi di senatori, deputati, eccetera, eccetera, con i titoli di Stato? A me sembra un'ottima soluzione. Maria Luisa. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari e non incolpate me se ci gettate dei denari, non ho colpa. Se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandera e vi coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. Se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. E non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina per una tempo, un'altra monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina a te, una monetina a me. Quante monetine ci vogliono per vivere? Ci vogliono soprattutto le banconote, quelle grosse, per fare la spesa, da mangiare, vestirsi e tutte le altre cose, le bollette. C'è però un movimento in Italia che sta crescendo e ha deciso di prendere un'altra strada: riciclare, riutilizzare, coltivare, consumare di meno, insomma ripensare la vita in modo diverso, più economico soprattutto. Come per esempio Stefania, una 37enne che viene da Robecco d'Oglio in provincia di Cremona, la cui storia è rimbalzata in questi giorni dalla cronaca locale a quella nazionale. Lei da un po' di tempo gestisce un blog per spiegare a tutti quello che fa, cioè vivere con un euro al giorno, e siccome in famiglia sono in cinque, vivere con 5 euro al giorno senza essere meno felici degli altri. Stefania è qua con noi, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, tra poco Stefania ci racconterà anche alcune delle sue strategie, dei modi che mette in pratica per risparmiare. Prima però le voglio chiedere: com'è nata a lei e alla sua famiglia l'idea di intraprendere questa strada? questa strada ci è saltata in mente perché comunque da un giorno all'altro mi sono ritrovata senza lavoro, avevamo un mutuo da pagare, i bambini, uno stipendio solo da operaio di mio marito e volevamo a tutti i costi non rinunciare al nostro sogno che era un pezzettino di orto per coltivarci biologico tutto nostro. E quindi mi sono reinventata una nuova vita pensando ai nostri avi, ai nostri bisnonni, come facevano. E ho cercato sul blog ricettine semplicissime e mi faccio tutto in casa, quasi tutto in casa. Ecco, questo orto è un po' la vostra ancora di salvezza, perché il mangiare soprattutto, ma poi credo anche il vestire, sono le due voci di spesa su cui lei riesce davvero, conti alla mano, a spendere, insomma, se non un euro, pochissimo. Ci racconti cosa fa dalla mattina quando si sveglia per mettere in pratica questa strategia di risparmio? Beh, sicuramente mi alzo presto la mattina, faccio il pane, faccio le pizze, faccio i sofficini in casa, cerco di fare tutto in casa, anche la pasta, evito di comperarla, la faccio io in casa con la farina che abbiamo. E i vestiti, abbiamo la fortuna che ce ne regalano tanti le altre mamme quando li scartano e noi li riadattiamo. Cioè lei cuce in qualche modo, allunga, stringe, accorcia, allarga, rigira. Con l'uncinetto facciamo delle applicazioni sulle macchie delle bambine, ci applichiamo sulla macchia invece di scartare la maglietta, ci applichiamo un fiorellino fatto all'uncinetto o ritagliato da un'altra maglietta e ci reinventiamo i vestiti. Ci sono le foto sul suo blog, alcune cose sono anche molto gustose, parlo appunto di questi capi di abbigliamento che lei ricicla e rende anche graziosi. Ha dovuto imparare un sacco di cose, è stato difficile imparare per esempio a cucinare cose che normalmente siamo abituati a andare a comprare belle fatte? No, la prima volta, come tutte le cose, la prima volta sei un po' impacciata, poi piano piano ti gestisci la cosa. No, sono ricette tra l'altro semplici con prodotti di uso quotidiano, quindi non sono cose proprio difficili, no. Mi sembra di capire anche dall'entusiasmo, ecco, ma per esempio i figli, i bambini, voi quanti figli avete? Come, quanti anni hanno? La seguono in questo percorso? La capiscono? Sì, tantissimo. Loro sono molto entusiasti, anzi sono loro a volte che mi chiedono: dai, facciamo il pane, facciamo il tappeto con gli scarti dei loro vestitini. Loro sono ancora più entusiasti di me, per loro è un gioco e loro si divertono tantissimo. Invece di giocare con un gioco di plastica, noi facciamo le cose, inventiamo le cose. Ecco, appunto, mi sembra di percepire anche appunto questo entusiasmo, perché insomma lei il lavoro l'ha perso, però adesso potesse tornare indietro, cioè tornerebbe magari a fare un lavoro, per esempio in un ufficio, a gestire delle pratiche di cui spesso, diciamo, non gliene frega niente a nessuno, oppure si diverte tutto sommato di più anche a condurre questa vita attiva in casa con i suoi figli, a fare delle cose concrete che però la fanno anche stare di un umore positivo, mi sembra di capire. Noi siamo felicissimi, molto di più adesso che prima. No, io tornerei volentieri un part time al lavoro, se avessi la possibilità mi piacerebbe, sì. Però non lascerei mai tutte queste pratiche, cercherei di ritagliarmi comunque i tempi per farli lo stesso, mi riorganizzerei un'altra volta, io ho perso il lavoro, ma mi piacerebbe tornare a lavorare solo poche ore al giorno. Ecco, magari un part time per poter continuare anche a fare le cose che state facendo. Senta, un euro al giorno è un titolo naturalmente, poi ho letto da qualche parte, lei dice abbiamo il mutuo per pagarci la casa, anche le bollette, la benzina, facendo proprio i conti all'osso, quanto, così diamo un'indicazione anche a chi vive. Io non ho mai fatto i conti tra bollette, mutuo eccetera, perché abbiamo il mutuo altissimo. Io ho fatto questo conto approssimativo di un euro al giorno, che è veritiero comunque, però comprende solo abbigliamento, cibo, e materiale scolastico per i bambini e farmacia, che fortunatamente non ne abbiamo bisogno, comprende queste cose qua. Poi vabbè, il mutuo, l'affitto e le altre cose magari. Ognuno si può fare i conti da sé. Stefania, magari ci riuscirei. Diamo l'indirizzo del suo blog così siamo a posto. Sì, naturalmente Stefi. Che dice tutto. Naturalmente Stefi, sì. Natural con la mente Stefi. E va bene, allora grazie Stefania Rossini. Grazie mille. Da Robecco d'Oglio in provincia di Cremona, vivere con un euro al giorno si può fare. Questa era la prima storia di oggi. Noi oggi vi vogliamo anche chiedere all'800 24 00 24 quali sono i vostri rimedi anticrisi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. E abbiamo sentito la storia di Stefania Rossini da Cremona. Vi chiediamo all'800 24 00 24 se voi avete delle strategie tipo le sue per risparmiare sul mangiare, sul vestire, sugli oggetti di casa, ma anche sulle bollette. Insomma, accettiamo consigli utili per una vita più economica. Adesso un altro argomento, perché le iniziative sul fronte della lotta all'evasione fiscale, della legalità fiscale, si moltiplicano in queste settimane. Fortunatamente il clima, insomma, è davvero cambiato. Per esempio, così Maurizio Crozza, martedì a Ballarò. Per anni abbiamo sentito bofonchiare che si sarebbe combattuta l'evasione. Bisogna trovare un modo per combattere l'evasione. Dobbiamo trovare un modo per combattere l'evasione. Dovremmo trovare un modo per combattere l'evasione. Dobbiamo trovare un modo per combattere l'evasione. E non è mai successo niente. Poi è arrivato lui e ha detto: vi mando la finanza. Di Monti, Giarda, Catricalà, vi facciamo un mazzo di fiori così. Canta la finanza. Fiamme gialle per te, ho mandato stasera. E l'ultima iniziativa in ordine di tempo sul fronte della legalità fiscale arriva da Crotone. Questa è la storia di una sorta di concorso che il comune ha voluto istituire, una specie di lotteria. Inviateci in sostanza i vostri scontrini, le vostre fatture, in una certa quantità, 100, e noi mettiamo in palio buoni per fare la spesa, e a tutti i partecipanti intanto il comune rilascerà una pergamena di buon cittadino. Cittadino Doc, Peppino Vallone, sindaco di Crotone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco, prima di tutto, cosa c'è scritto nella pergamena? Siete partiti da poco, non so se avete già rilasciato qualche pergamena, non credo, perché l'iniziativa è in fase di rilancio. Sì. È una fase proprio di avvio, questa l'abbiamo condivisa un pochettino anche con le associazioni di categoria. Creare un movimento all'interno della città di legalità rispetto a un problema che sembra che sia uno dei problemi più importanti nazionali. Ma cosa ci scriverete nella pergamena? Ce lo anticipi? Ma un attestato di cittadino doc rispetto, diciamo, a una problematica che vede fasce di sacche di evasione molto consistenti. Non solo la richiesta dello scontrino fiscale comincia a diventare, deve essere una richiesta formulata direttamente dal cittadino e dall'acquirente, con la divisione, con la condivisione delle associazioni di categoria, quindi commercianti e artigiani. Tra l'altro non è un'iniziativa isolata questa del comune di Crotone, perché voi fate per esempio anche, come anche in altre città, gli incontri nelle scuole superiori, per esempio con la Guardia di Finanza. Assolutamente sì, con l'ufficio distrettuale delle imposte, con la Guardia. Hanno suonato alla porta, sindaco, forse. Sì, esatto, sì. Non so se deve andare a rispondere oppure se. No, già può rimanere con noi. Ecco, diciamo di questi incontri nelle scuole, insomma, voi affrontate l'argomento, perché ecco, una obiezione che viene fatta è un po' questa: sono iniziative spot, bisogna raschiare il fondo del barile, la lotta all'evasione fiscale, se la si vuol fare, si può fare sempre normalmente, non c'è bisogno, qualcuno dice, di queste cose straordinarie. Lei cosa risponde invece, lei che sta portando avanti un'iniziativa che è un po' straordinaria nel suo genere? È un po' straordinaria, si presta il fianco ad essere vista come diciamo un'iniziativa spot. Noi abbiamo ritenuto che ci sia un problema di fondo. C'è un problema di fondo rispetto a un problema di una condivisione da parte di tutti. Molto spesso il principio ormai pagare tutti per pagare meno diventa un fatto che proclamiamo tutti, salvo poi ciascuno di noi ha difficoltà a fare la sua parte. Tecnicamente, se cominciamo un poco tutti a farla, probabilmente questo principio comincia a trovare qualche. Certamente le evasioni non sono quelle alle quali ci riferiamo noi, e bisognerebbe guardare alle evasioni di natura diversa, però certamente anche queste concorrono a fare, diciamo, quel dato molto alto di evasione che sì. Caratterizza. Ecco, ma tecnicamente, oltre alla pergamena che andrà a tutti quelli che parteciperanno inviandovi, credo di aver capito bene, 100 tra scontrini e fatture, poi c'è anche un premio che voi mettete in palio. Un premio che mettiamo in palio. Di quanto? Un'operazione che facciamo, la stiamo facendo ora, proprio il regolamento, sarà proprio per acquisto di beni. Ecco, ma diamo un ordine di grandezza. Sì. Ma faremo almeno un 500, diciamo, buoni di acquisto rispetto a 500 cittadini, a 500 famiglie che vengono estratte per che vengono estratti. Sindaco, resti un attimo in linea con noi, proviamo a chiamare qualche crotonese, vediamo se sanno qualcosa, se ne sanno qualcosa di questa iniziativa, sentiamo. Abbiamo in linea un abitante di Crotone, è quasi l'ora di pranzo, magari stanno preparando un bel piatto. Buongiorno, salve, in diretta su Radio 24, si può fare, sono Alessio Maurizi. Volevo farle una domanda, se ha un minuto. Lei ha conoscenza dell'iniziativa del Comune che vuole rilasciare una pergamena ai cittadini che inviano scontrini e fatture al Comune come segno di, insomma, una buona iniziativa sul fronte della legalità fiscale? La conosce questa iniziativa? No, non la conosco. Metteranno in premio anche dei buoni per fare la spesa. Lei parteciperebbe a una cosa del genere? Sicuramente, mi sembra una cosa giusta. Insomma, non, le piace questa iniziativa del sindaco Vallone? Sì, certo. Ma lei se li fa fare gli scontrini, le fatture, che ne so, insomma? Guardi, sempre. Sempre? Sempre. Io sono un dipendente pubblico, io le tasse le pago e pretendo che le pagano anche gli altri. Bravo, bravissimo. Sindaco, ha sentito questo cittadino? Un dato casuale, spero che non sia solo casuale, che sia un... No, era casualissimo, noi fra l'altro lo ringraziamo, vediamo se ce ne abbiamo un altro, poi però non era a conoscenza dell'iniziativa, perché non vi siete fatti abbastanza pubblicità. Sentiamo? Sì, ancora non l'abbiamo pubblicizzata a sufficienza, stiamo redigendo un regolamento proprio attuativo. Per sentiamo un altro cittadino di Crotone. Pronto? Pronto, buongiorno, Radio 24 in diretta, il programma Si può fare, sono Alessio Maurizi, la disturbo? Sì, in questo momento sì, perché una mamma invalida la devo, allora la no, devo accudire. È l'ora di pranzo, tra l'altro. Era solo per un'iniziativa sul fronte della lotta all'evasione fiscale. Guarda, del Comune. Non... Mia mamma ha letto, mi scusi. Allora niente. Va bene, grazie. Comunque, sindaco, magari adesso chiamiamo qualcun altro per vedere se... Però mi sembra che, insomma, la prima telefonata è andata bene. Ripeto, non c'è condivisione piena rispetto a una realtà che ha molti problemi, certamente sembra, ripeto, più... Ecco, ce ne hanno messa in linea un'altra. Buongiorno, Radio 24, in diretta, sono Alessio Maurizi. Volevo chiederle se conosce l'iniziativa del sindaco che vuole mettere in premio dei buoni spesa a chi manderà al Comune le ricevute, le fatture e gli scontrini richiesti agli esercizi per fare la lotta all'evasione fiscale. Ne sa qualcosa? No. Ancora non c'è stata fatta pubblicità, ma lei parteciperebbe a una cosa del genere, cioè invierebbe gli scontrini che richiede nei negozi il Comune per avere in palio un buono spesa? Sì, le richiede. Le richiederà. Allora parteciperà, insomma un'altra... Vabbè, grazie. Sindaco, la salutiamo. Un'altra cittadina, mi sembra che siano tutti ben disposti, vabbè, insomma, quando c'è da vincere qualcosa... alla partecipazione. Avete creato un incentivo. Vabbè, staremo a vedere. Io intanto la ringrazio, Peppino Vallone, sindaco di Crotone, per l'ultima iniziativa sul fronte della lotta all'evasione. E quindi chi invierà i propri scontrini, le proprie fatture al Comune, almeno 100, potrà partecipare a questo concorso. Medico della mutua, la colonna sonora firmata da Piero Piccioni del celebre film di Alberto Sordi, perché di un medico vogliamo parlare. Un tempo il medico condotto faceva le visite casa per casa, oggi sappiamo purtroppo che non è più così, ma c'è stato un momento qualche giorno fa nel quale sembrava di essere tornati a quei tempi. Durante le nevicate in Emilia Romagna, con le città isolate, c'è stato chi, un medico di Cremona, è partito da casa e ha trascorso il weekend libero dando una mano ai soccorsi, scia ai piedi, si è fatto largo nella neve prestando aiuto a chi ne aveva bisogno. Una notizia, lo ricordiamo, segnalata da shinynot.com, il social network su basi etiche. Noi l'abbiamo in linea, Paolo Brambilla, medico sciatore, buongiorno. Buongiorno, senta, buona domenica. Ecco, buona domenica, mi consenta subito la battuta. Lei proprio non aveva niente da fare quel weekend libero e andare a fare questa esperienza, oppure è stata proprio una scelta meditata la sua, di solidarietà? No, è stata una scelta meditata, avrei avuto anche altre cose da fare, anzi sarei andato anche a sciare volentieri. Tra l'altro mi tolga una curiosità, perché Cremona, io non sono pratico, però credo che sia in pianura. Lei è un sciatore, dove ha imparato a sciare? Ma io sono di origine bergamasche, penso che sia importante dirlo, perché siamo più vicini alla montagna, quindi... Ecco, allora diciamolo. A Cremona no, non si quindi sa sciare davvero, insomma. sciare, ho un'esperienza di sci d'alpinismo, quindi, e quindi da lì è nata un po' l'idea di, sì, di usare gli sci come mezzo di progressione nella neve, non tanto per divertirsi a far discese, certo. Ma come l'hanno accolta quando si è presentato a Cesena in Nevada per prestare questo tipo di soccorsi? Mi hanno accolto molto bene, sono stato contento perché ho visto che sono rimasti sorpresi, ma anche contenti davvero perché potevo dare una mano, e contento sono rimasto anch'io, ho trovato gente molto accogliente in un momento tra l'altro veramente difficile. Che cosa ha fatto poi concretamente? Si sarà coordinato con la Protezione Civile, non so, ha visitato molte persone, ha visto gente che aveva bisogno davvero d'aiuto? Allora, sono stato in contatto con la Protezione Civile, con l'ufficio del Comune, e ci siamo organizzati di modo che io potessi svolgere un servizio specifico che era appunto quello di raggiungere persone che non potevano essere raggiunte né a piedi né con le motoslitte né con le auto, perché ovviamente c'era parecchia neve e nella neve fresca purtroppo gli sci sono a volte l'unico mezzo che si può utilizzare per muoversi, quindi mi è stato assegnato il primo giorno un caso da andare a vedere nella zona sempre della periferia di Cesena, e il secondo giorno sono stato invece inviato in una frazione, San Carlo si chiama, sulle colline sempre del Cesenate. Devo dire che sono stati due casi che ho visto, e però hanno richiesto parecchio tempo, per cui anch'io inizialmente pensavo di andare a vedere chissà quanti pazienti, invece le necessità erano proprio quelle, per cui per esempio il primo giorno per raggiungere questa persona ci abbiamo messo un'oretta, insomma, tra camminare, mettersi gli sci, le pelli di fuoco eccetera, abbiamo trovato questa persona in un cascinale che soffriva di una crisi d'ansia importante. Anche da isolamento, da neve, immagino. Esatto, sì, proprio per quello. Era una persona che aveva anche altri problemi psichiatrici. Insomma, si è reso davvero utile. Paolo Brambilla, immagino che non sarà l'ultima delle sue avventure. Adesso andiamo incontro alla bella stagione. Non potrà mettere più a frutto gli sci per qualcuna di queste sue, chiamiamole prodezze, scherzando. Però ci risentiremo magari quando ne combinerà un'altra delle sue, positivamente parlando. Intanto la ringrazio. Grazie a voi. E buona giornata. 12:30, Giornale Radio. Torniamo tra pochissimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati, oggi vi chiediamo all'800 24 00 24, oltre che di raccontarci le vostre storie sui temi che vi abbiamo proposto, quali sono i vostri rimedi anticrisi? La prima storia da cui siamo partiti, Stefania Rossini, dalla provincia di Cremona, che vive, lei e la sua famiglia, con 5 euro al giorno risparmiando sulle cose da mangiare e sui vestiti. 800 24 00 24, accettiamo i vostri buoni consigli per una vita più risparmiosa. Abbiamo Elisabetta che ci chiama da Bologna. Buongiorno. Buongiorno. E cosa ci racconta Elisabetta? Niente, io a proposito appunto dell'intervento della signora Sefi, volevo dire che mi sembra un po' di sentire la vita delle casalinghe, no? Io ho 54 anni e praticamente sia mia madre che mia nonna mi hanno insegnato tutte queste piccole cose, usare la macchina da cucire, e risparmiare nel far da mangiare, cioè questa settimana c'era stata anche tutta quella polemica delle croste di formaggio nei supermercati, no? Noi, cioè, insomma, una versione un po' integralista della casalinga che però si era un po' perduta, però lei rivendica di averlo. Se una donna lavora, poi certe cose non le può fare. Lei però dice: io queste cose le ho sempre fatte, si è sempre trovata bene, e le insegnerà anche a figli. Io ho tre maschi, fortunatamente, quindi non lo so. Però comunque non hanno voglia di imparare, maschi. Io faccio l'insegnante, quindi comunque, però sono cose che mi hanno insegnato e continuo a fare, quindi usare la crosta di formaggio, non so, da mettere nel minestrone, insomma, tutte queste cose che cerchi di non buttare via niente, di utilizzare tutto, ecco, certo che diventa difficile, ripeto, quando non te l'hanno insegnate e sei fuori tutto il giorno. È da qua l'iniziativa della nostra Stefania, che con un blog insegna proprio a chi non ha avuto modo di farsi tramandare queste cose dai genitori e dai nonni. Grazie Elisabetta. Andrea da Torino, buongiorno anche lei. Qual è il suo consiglio? Ha dei consigli a darci? Buongiorno intanto. Sì. Senta, io niente, mi sono promesso di chiamare perché dal punto di vista della gestione dei costi per le famiglie e quindi anche di tutto quello che può incidere sul potere d'acquisto, pensavo che si potrebbe organizzare dei gruppi di acquisto privati che vadano a trattare direttamente sulla filiera della grande distribuzione i prezzi per la spesa. Così come insomma, sì, i gruppi d'acquisto per risparmiare, mettiamoci insieme, uniamoci, è una cosa che sta andando abbastanza di moda anche da alcuni anni, è una cosa abbastanza di nicchia, però è un modo per fare acquisti risparmiando su alcuni costi logistici di distribuzione, eccetera. È un buon suggerimento anche questo che ci veniva da Andrea da Torino. 800 24 00 24. Oggi vi chiediamo i vostri rimedi anticrisi. Sonora di Easy Rider per parlare di un viaggio non in moto in questo caso. Vediamo tre studenti dell'Università Lewis in viaggio per l'Italia alla riscoperta del volto migliore dell'Italia. 13 regioni, 35 tappe, 6.000 chilometri in treno e in auto elettrica, purché con mezzi ecocompatibili. Tanti incontri con personaggi, loro dicono, ordinari che hanno fatto, stanno facendo cose straordinarie dal 24 febbraio, cioè da due giorni fa, al 12 marzo. E noi li seguiremo per quello che possiamo, li salutiamo prima di tutto. I tre studenti sono Marco Pizza, Carlotta Maraschi e Andrea Bramante. I primi due sono quelli che faranno le interviste ai personaggi che verranno incontrati. Il terzo invece filmerà tutto e metterà online sui social network. Buongiorno a tutti e tre e benvenuti. Buongiorno, buongiorno alla Lewis, l'università che è all'origine di questa iniziativa. Chi mi spiega come nasce questa iniziativa? Tra l'altro vi hanno selezionato tra molti, credo più di 1.000 persone. Che cosa vi hanno chiesto? Che caratteristiche dovevate avere per lanciare questa iniziativa? Chi risponde? Rispondo io, ciao. Carlotta, ciao. Sì, eccomi. Allora, diciamo che mi sentite? Sì. Questo viaggio parte dalla volontà di, diciamo, della Lewis di mettere in gioco tre ragazzi, quindi io per appunto Marco e Andrea, con principalmente l'idea di mostrare le caratteristiche di quell'Italia che in realtà è l'Italia migliore. Quindi con un occhio non critico come quello che può essere il giornalista, ma quindi con un occhio di semplici ragazzi ventenni, cercheremo per l'appunto di raggiungere le varie regioni d'Italia per mostrare quali sono le caratteristiche di quest'Italia migliore. Quindi andremo a intervistare dall'imprenditore che, diciamo, ce l'ha fatta, a per esempio il pastore che si trova in Sardegna, che attraverso i social network sta portando avanti la sua attività e, diciamo, è riuscito a svoltare. Andremo ad intervistare per esempio un guardiano del faro, andremo, non lo so, a Firenze a visitare un po' la città e a trovare comunque delle storie. L'importante, la caratteristica, è che siano delle storie vere, raccontare da persone vere. Insomma, curiosità, creatività, coraggio, innovazione, quello che c'è di buono nell'Italia di oggi. Uno dei primi incontri che avete fatto mi incuriosisce. Noi oggi abbiamo parlato un po' di modi di vita risparmiosi. Avete incontrato una persona che ha viaggiato più volte in giro per il mondo partendo, se non ho capito male, senza valigia e senza soldi praticamente. Esatto. Ecco, chi me la racconta questa? Sempre Carlotta? Sì, volendo sì, lui è Matteo Pennacchi, sì. L'abbiamo appunto intervistato il primo giorno della nostra partenza, che è stato l'altro ieri, e in pratica lui è partito senza bagagli proprio per fare questo viaggio da est a ovest del mondo. All'interno di questo viaggio gli sono capitate delle cose più impensabili, ad esempio quando è stato in Cina è stato morso da un ragno e non avendo comunque soldi per potersi curare ha dovuto cercare di inventare delle strategie per poter chiedere aiuto. Ha scoperto in questo modo, diciamo, la generosità delle persone che, viceversa da quanto si pensa, a volte può comunque venire incontro piuttosto che viceversa sembrare comunque distante da quella che è in realtà l'umanità. Quindi ha raccontato questa sua esperienza di vita che è stata meravigliosa e ci ha colpito moltissimo. Insomma, si toccano corde particolari, inedite, come la solidarietà e riuscire a cavarsela partendo con basi minime. Un'altra storia vi ha portato a Scampia. Pavia, il quartiere di Napoli raccontato da Saviano in Gomorra, quello delle vele, quei palazzi attaccati, giganti tra di loro. Chi mi racconta che cosa avete trovato a Scampia e che insegnamento ne avete tratto? Beh, ciao Alessio, io innanzitutto sono Marco, buongiorno a tutti. Buongiorno. Niente, ti riposo a voi, ti racconto io l'avventura, la nostra avventura a Scampia. Siamo stati ieri lì, siamo stati il 24, cioè l'altro ieri lì, e niente, in maniera particolare ci ha colpito molto perché spesso noi siamo abituati a vedere queste realtà in TV, che ci sono presentate dai media e ci sono presentate anche in un certo modo. E quindi magari siamo abituati a certe situazioni che poi magari lì vai sul posto e non ti aspetti. E sono diverse, invece? Esatto. Noi siamo rimasti molto colpiti dall'intervista che abbiamo avuto, abbiamo fatto al maestro Gianni Maddaloni, il quale lo ringraziamo anzi per averci ospitato nella sua palestra di judo. In maniera particolare siamo stati molto colpiti anche dai ragazzi che erano in quella palestra, dei ragazzi normali, dei ragazzi semplici che sicuramente vivono delle situazioni piuttosto disagiate, però comunque attraverso lo sport vogliono emergere in qualche modo. Abbiamo anche conosciuto un ragazzo brasiliano che ci deve salutare perché è stato gentilissimo, addirittura ci è venuto a prendere lui alla stazione. E lui è campione, praticamente è stato campione in carica di judo nel 2005, mi sembra. Quindi diciamo sono state raccogliendo un sacco di contatti, solidarietà, belle storie. Andrea Bramante, l'ultimo dei tre, facciamo parlare anche lui, buongiorno. Tu sei il filmmaker. Io sì. Hai già cominciato a mettere qualcosa. E saresti, vediamo poi la prova dei fatti. In ogni caso siamo tre studenti, non siamo tre giornalisti né tecnici. No, certo, siamo studente di giurisprudenza. Studente di giurisprudenza che sarei io, Marco che studia economia e Carlotta che studia scienze politiche. Ci vuoi ricordare i vostri contatti per vedere dove, per andare poi a vedere questo materiale che voi metterete online? Potete seguirci sulla pagina di Luis on the Road su Facebook. Nonché su Twitter, sempre su Luis on the Road. Il sito di riferimento è www.luisontheroad.it. Siamo anche su Flickr e anche su Foursquare. Comunque i principali canali di diffusione su Facebook e Twitter, trovate tutti gli aggiornamenti in tempo reale che visitiamo. Per esempio adesso siamo a Potenza, abbiamo incontrato il sindaco Vito Sant'Arsiero, abbiamo fatto una conferenza con lui, abbiamo visitato anche qui in questa bellissima regione che è la Basilicata, che pochi di noi conoscevano, moltissimi anche agriturismi e soprattutto anche moltissime aziende che con grande forza continuano la loro attività e soprattutto che non diciamo colpite a livello diciamo personale, anche individuale, dalla crisi economica, continuano la loro attività in maniera assolutamente fiduciosa verso il futuro. Certo, in maniera come no, la Basilicata rilanciata recentemente anche dal Festival di Sanremo da Rocco Papaleo, autore tra l'altro di quel chicca di film che era Basilicata Coast to Coast. Va bene, io ringrazio Marco, Carlotta e Andrea della Luis per questo Luis on the Road, viaggio alla ricerca dell'Italia migliore. Vi risentiremo se volete la settimana prossima, ci racconterete altre storie e nel frattempo andate a visitare sui loro contatti che avete sentito per sentire che cosa stanno raccogliendo in questo loro viaggio. Già che ci sono, vi ricordo anche, ciao ragazzi, ci sentiamo la domenica prossima. Ciao Alessio. Se volete potete lasciare le vostre storie anche sul nostro profilo di Facebook, si può fare @radio24, la nostra mail si può fare @radio24.it. Vi ricordo anche la segreteria telefonica 800 28 12 12. In una delle prime puntate avevamo parlato del recupero dei luoghi pubblici e privati abbandonati, però non avevamo pensato ai terreni. Sentite cosa ci ha detto questa ascoltatrice. Tutti i campi abbandonati che abbiamo in Italia, che sono tantissimi, potrebbero essere sfruttati in modo molto più intelligente. Come? Lo Stato potrebbe darli, regalarli temporaneamente a imprenditori che potrebbero lavorarci, sviluppare fabbriche, sviluppare agricoltura con magari 10 anni senza tasse, e poi in quel modo dopo 10 anni sarebbe un terreno molto più produttivo e ci sarebbero anche nuovi imprenditori che produrrebbero nuove tasse, quindi con un vantaggio anche per lo Stato, e non avremmo abbandono del nostro meraviglioso territorio. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. ben ritrovati cari ascoltatori. Avete sentito questo viaggio Louis on the Road, una bella iniziativa alla ricerca dell'Italia migliore. E come non ospitarli in un programma come il nostro, che si chiama così, Si può fare, cronache da un'Italia migliore? Beh, insomma, la sintonia è perfetta. E allora oggi vi chiediamo all'800 24 00 24 le vostre storie, in particolare sollecitati dalla storia di Stefania Rossini, che ha deciso, lei e la sua famiglia, di provare a percorrere una strada diversa, meno consumistica, insomma vivere con 5 euro al giorno, sono 5 in famiglia, lei ha perso il lavoro, però si è reinventata casalinga tutto fare. Allora abbiamo Grazia che ci chiama da Teramo, buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buona domenica a tutti. Lei che consigli utili ci può dare? Mio figlio e io amiamo la lettura e fino a pochi anni fa i libri che ci piacevano li compravamo, ma a un certo punto mi sono resa conto che poi una volta letto rimanevano nello scaffale pieno di polvere. Allora a questo punto mi sono iscritta a 2 biblioteche comunali e andiamo di continuo a prendere i libri nelle biblioteche. Più altre, c'è anche una biblioteca dove posso leggere il giornale, mentre che mio figlio ad esempio naviga un'oretta su internet, io mi leggo il giornale. Va bene, grazie. Allora, insomma, grazie. Anche questo è un suggerimento, perché insomma le biblioteche comunali sono sempre una bella e importante risorsa. L'importante è che non chiudano e che invece insomma restino come un baluardo, un servizio pubblico non da sottovalutare. Claudio da Modena, buongiorno, 800 24 00 24. Lei ha qualche iniziativa da raccontarci o voleva commentare? No, volevo commentare sull'iniziativa di Crotone, premesso che sono un cittadino che paga tutte le tasse fino all'ultimo e che penso che chiunque vada alle tasse sia un ladro, cosa che peraltro pensano in tutti i paesi civili del mondo. Volevo evidenziare che c'è secondo me un grossissimo problema di privacy. Inviare 100 scontrini al comune secondo me è una cosa che è abbastanza compromettente, nel senso che il comune a questo punto conosce tutte le mie abitudini e anche i miei tenori di spesa, e non credo che sia che il gioco non valga la candela, cioè mandare in maniera così marchiana tutti i miei le mie abitudini al comune, non so se sia una cosa che possa avere un grosso successo, quindi secondo me bisogna che il sindaco ripensi un pochino la cosa. Ma io penso che qualche studio dal punto di vista legale o approfondimento l'avranno fatto, insomma comunque lei è un suggerimento alla prudenza, staremo a vedere, grazie. Non so se da Crotone ci stavano a sentire, questo ascoltatore dava un suggerimento su come mettere a punto, ricordo l'iniziativa per chi non l'avesse sentita, il comune di Crotone metterà in palio dei buoni spesa e a quei cittadini che invieranno almeno 100 tra scontrini e fatture a testimonianza della loro, del loro buon impegno sul fronte della legalità fiscale. Visto che ci eravamo trovati bene con Marco, Carlotta e Andrea, i 3 ragazzi della Luis con cui abbiamo parlato poco fa, li abbiamo richiamati. Ben ritrovati! Ciao! Ben ritrovati, di nuovo! Cioè, inaspettatamente, perché diciamo la verità, inaspettatissimamente, perché adesso avevamo ancora qualche minuto per parlare di un altro argomento, però l'ospite che avevamo chiamato non ci risponde, cose che capitano in diretta, e allora ho pensato, beh, che fare, racconto io qualche notizia oppure richiamo i 3 ragazzi. Ragazzi, e mi raccontano, per esempio, invece. Ma avete fatto benissimo. Ecco, abbiamo fatto bene, infatti. Allora, però, mettiamo a frutto questo incontro e parlateci di quella che sarà una delle prossime tappe che farete e sul quale volete mettere a fuoco un po' questo viaggio alla ricerca dell'Italia migliore. Non so chi mi vuole rispondere. Carlotta. Scenderemo giù per lo stivale. Adesso siamo, appunto, dicevo, a Potenza, siamo arrivati qui fino a qui col treno, ma proseguiremo non solo con il treno, come dicevi tu prima, ma in macchina anche. Autonoleggeremo un'auto e gireremo fino alla Sicilia. La prossima tappa sarà Cosenza, Non che avremo diversi incontri pure in Sicilia, a Barcellona, Posto di Gotto, andremo a trovare anche le vittime dell'alluvione. Certo. Avremo anche incontri con personaggi ordinari, comuni, più o meno famosi, fino alla Sicilia, per riferire poi sempre in macchina lungo tutto lo stivale per andare in Puglia e in seguito arriveremo in Toscana, come accennava prima Carlotta. Troveremo un mastro calzolaio molto famoso anche in America, proprio per le sue scarpe molto speciali, ma non mi anticipo niente. L'itinerario di viaggio è in parte su internet, in parte sarà anche rimesso a noi, perché grazie alla nostra creatività e flessibilità potremmo trovare sì, occasioni interessanti da filmare e da raccontare, come è capitato per esempio in occasione della partenza. Abbiamo incontrato a Termini Leonardo Pieraccioni, gli abbiamo fatto qualche domanda, troverete l'intervista sempre sulla nostra pagina. Voi viaggiate in treno con l'auto elettrica, un messaggio anche questo di carattere ambientale, naturalmente mezzi ecocompatibili, poi però nella vostra vita privata diciamo trarrete spunto anche da questa vicenda per cambiare un po' il vostro stile di vita, oppure continuerete, non so se già lo state facendo, con scooter, moto e macchine magari super inquinanti? Guarda, naturalmente questo viaggio ci darà l'opportunità non soltanto di conoscere comunque l'Italia, ma anche di quei servizi che l'Italia mette a disposizione, quindi non so, ci andremo ad interessare sicuramente di quel servizio che si chiama carpooling, quindi la possibilità di dividere una macchina per andare a risparmiare per quanto riguarda l'ecologia, così senza dubbio ci aiuterà da questo punto di vista, quindi ridurre comunque le emissioni di CO2 nell'ambiente. Tra l'altro Roma ne avrebbe bisogno, voi vivete nella capitale, perché Roma il traffico credo che sia quanto di più caotico ci sia, non dico al mondo, ma insomma, perché c'è sempre di peggio, però abbastanza. Va bene, ecco, io direi che vi ringrazio ancora anche per questo prolungamento di intervento, Marco, Carlotta e Andrea. Siamo giunti in chiusura, ci sentiamo comunque la settimana prossima con il vostro viaggio in giro per l'Italia. Noi per oggi ci fermiamo qua con Si può fare. Buona giornata da Alessio Maurizi, buona settimana, un ringraziamento a Stefania Tagliaferri, a Valeria Bernardi che ci ha assistito in regia ottimissimamente. Noi ci risentiamo la settimana prossima, buona settimana a tutti.